veniva finalmente liberato dalla sua spaventosa compagna. Venne condotto da lui un misterioso personaggio che in quei giorni si trovava casualmente a Ratisbona. Costui fu introdotto nella camera del giovane proprio all'ora in cui, di solito, faceva la sua comparsa la monaca insanguinata. Questa lo vide e si mise a tremare. Quindi, a un suo ordine, spiegò il motivo della sua importuna assiduità. Era una suora spagnola che aveva abbandonato il convento per vivere nel peccato con il signore del castello di Lindenberg. Infedele con il suo amante, come lo era stata con Dio, un giorno lo aveva pugnalato, assassinata poi dal suo stesso complice, che avrebbe dovuto sposarla. Il suo corpo era rimasto insepolto e la sua anima, senza asilo, errava da più di un secolo. Chiedeva soltanto un po' di terra per l'uno e delle preghiere per l'altra. Raymond promise ogni cosa e non la vide più. Avete ascoltato la lettura del racconto di Charles Nodier, La monaca insanguinata, Coniglio Editore, 96 pagine, 10,50 euro. Letture di Radio 24. Cosa desiderano le industrie del Nord per l'anno nuovo? Ridurre le distanze tra il comparto produttivo più ricco e prosperoso d'Italia e le grandi economie europee, come la Germania. Per questo gli industriali chiedono forti decisioni politiche per riagganciare la ripresa, consapevoli che il 2011 è l'anno delle decisioni. Priorità alla riduzione del carico fiscale e all'arginamento della fuga dei cervelli tra i giovani. Il Nord, traino dell'economia italiana, ha registrato nel suo insieme una crescita contenuta nel corso del 2010. Timidi segnali che tuttavia non hanno risolto i tanti nodi che le regioni settentrionali sono chiamate a risolvere. La maggior parte dei rappresentanti del sistema industriale italiano è convinta che il rilancio economico e occupazionale di tutte le regioni del Nord passi attraverso una serie di infrastrutture, la cui esecuzione ormai non va più rinviata. Partendo dalla Lombardia, sono convinti che crescita e sviluppo siano le priorità del 2011. Una ripresa che però, secondo il presidente di Confindustria Lombardia, Alberto Barcella, si svilupperà soprattutto nei mercati esteri. Di conseguenza l'attenzione va posta su una politica industriale che permetta di aumentare la quota dell'export. Sono quindi necessarie politiche che favoriscano l'internazionalizzazione attiva per essere presenti sui mercati esteri. In occasione degli Stati Generali di Confindustria Lombardia di fine novembre, Barcella ha indicato la proposta di un contratto regionale che favorisca gli insediamenti, sollecitazione che ha già incassato la disponibilità a collaborare da parte del Pirellone, senza dimenticare tra le priorità il sostegno all'accesso al credito e ai confidi, che sono un elemento fondamentale per la ripresa, soprattutto per le piccole e le medie imprese. La Liguria ha registrato una discreta ripresa nella prima metà del 2010, che successivamente si è affievolita. Per Sandro Cepollina, presidente di Confindustria Liguria, servono 5 miliardi per il terzo valico, altri 2 circa per la Gronda e se si aggiunge il collegamento Piemonte-Liguria si stima circa un investimento di 10 miliardi. Va inoltre ampliata l'offerta aeroportuale, ma anche il turismo può rappresentare il volano per la ripresa. È necessaria una nuova cultura dell'accoglienza, spiega Cepollina. Per questo gli albergatori devono fare la propria parte per innovare le strutture. Per Andrea Tomat, a capo di Confindustria Veneto, è necessario passare da una fase difensiva a un'attiva. Servono decisioni e politiche dirette, rivolte all'internazionalizzazione e a inserire il territorio nei nuovi centri della crescita e dello sviluppo mondiali. Inoltre Tomat sottolinea che il federalismo fiscale è un obiettivo da cogliere appieno e subito, come la vera ultima grande speranza di riforma del paese. Credito, ammortizzatori sociali, ricerca e innovazione, formazione e scuola, internazionalizzazione e infrastrutture saranno le partite prossime che si giocheranno in Veneto. Le risorse a disposizione, come sappiamo, sono limitatissime, spiega Tomat. Un primo obiettivo è di pretendere una quota maggiore di risorse per la nostra regione. La produttività di queste risorse sul nostro territorio avrebbe effetti positivi per tutti. La ripresa percepita anche in Alto Adige rischia di diventare una scusa per la politica. Il presidente regionale dell'Associazione degli imprenditori, Stefan Pan, avverte: «Non dobbiamo fermarci, anzi, c'è bisogno di un cambio di marcia. Sanità e personale costano troppo all'amministrazione pubblica, che rischia di restare troppo ingessata. Bisogna risparmiare su questi costi fissi e le risorse che si liberano vanno utilizzate per investire in innovazione e internazionalizzazione». Tra le altre priorità la riduzione di oneri burocratici e carico fiscale. La finanziaria provinciale ha tagliato l'addizionale IRPEF ai redditi più bassi e mantiene l'azzeramento dell'aliquota IRAP provinciale per le imprese, ma non per banche e assicurazioni. Alessandro Calligaris, presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, registra il leggero ottimismo dei suoi associati. Gli imprenditori faranno la propria parte, innovando le aziende, ma sia a livello locale sia nazionale c'è bisogno di intraprendere con coraggio un percorso di qualificazione del sistema fiscale, perché alcune imprese pagano oneri fiscali troppo alti e ingiusti. Senza i necessari strumenti, aggiunge Calligaris, non si può competere con i paesi confinanti, che hanno regimi fiscali troppo sproporzionati rispetto ai nostri e che hanno imposto dazi e messo barriere. Nei prossimi mesi occorre lavorare su pochi obiettivi ma di qualità, in particolare sulla formazione. Gli imprenditori di Trento, afferma Ilaria Vescovi, presidente della locale associazione degli industriali, hanno investito nel capitale delle aziende, rendendole più forti per l'accesso al credito. Da est a ovest, ma la situazione cambia di poco. Ricerca e innovazione, Europa e internazionalizzazione, formazione e valorizzazione del capitale umano, logistica e infrastrutture, turismo, insieme alla semplificazione e ai complessi processi di acquisizione delle risorse, sono per il presidente di Confindustria Piemonte, Mariella Enoch, elementi centrali e decisivi in grado di alimentare la nuova formula di sviluppo, gli ingredienti essenziali su cui costruire una nuova capacità propulsiva e l'industria futura. Perché il Piemonte possa continuare a essere il motore dello sviluppo dell'economia italiana, occorre un forte rilancio nel settore manifatturiero, insieme allo sviluppo di ambiti complementari come il turismo. Accompagnare le piccole imprese di tutti i settori nella fase del rafforzamento, dell'innovazione e nel momento in cui affrontano i mercati stranieri. A chiederlo è la presidente regionale di Confindustria Valle d'Aosta, Monica Pirovano, convinta che nel 2011, oltre a rafforzare la collaborazione con le istituzioni locali, deve intensificarsi lo scambio tra mondo universitario e imprese per far conoscere ai giovani il mondo del lavoro e per evitare la cosiddetta fuga dei cervelli. Nel nostro territorio, commenta Pirovano, è indispensabile continuare a puntare sulle reti d'impresa per sostenere le piccole aziende nel processo di innovazione, sviluppo e internazionalizzazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Così agganciamo la ripresa di Paolo Tomassone e pubblicato dal Sole 24 Ore di lunedì 20 dicembre. Dalle partite IVA alla difesa del Made in Italy fino al fattore D. L'articolo che stiamo per ascoltare propone qualche riflessione di politica economica che l'Italia dovrà affrontare nel 2011. Non facciamoci illusioni. Rigore sarà una parola regina lungo tutto il 2011. Ce lo chiede l'Europa per evitare di fare la fine di Grecia e Irlanda. Nella vita quotidiana, rigore vorrà dire probabilmente lavorare di più e rimodulare i vecchi stili di vita. Ma non è detto che una società debba per forza morire per troppa austerity. Nelle difficoltà, nei momenti topici, può darsi pure che riesca a ritrovare l'anima perduta. L'anno che viene rappresenterà il banco di prova del fattore D, come donna. È vero che in una società apatica come quella italiana, le tribù femminili sono quelle più ricche di motivazioni e obiettivi. Ma dalle analisi sociologiche e dagli incoraggiamenti, bisognerà passare più prosaicamente alla misurazione concreta del protagonismo e dell'inclusione femminile. Ci vuole dunque un parametro D. Dovremo sapere, persino di trimestre in trimestre, come stiamo progredendo. Se no, son favole. Il Made in Italy va difeso con le unghie e con i denti. Ma attenzione, se pensiamo che i nostri ragazzi possano fare tutti gli stilisti, o i designer, o i supermeccanici della Ferrari, stiamo coltivando una pia illusione. La cultura e la moda italiane, fortunatamente, piacciono ai nuovi ricchi cinesi e indiani, ma non sarà sufficiente il successo delle nostre multinazionali del lusso a salvare tutti i posti di lavoro. E allora nel 2011 il Made in Italy dovrà scendere dal piedistallo e inventarsi qualcosa di nuovo. Nessuno più nemmeno si degna di studiare il Sud. Per carità, so bene che analizzare la realtà del Nord è infinitamente più sexy. Però non abbiamo più contezza di cosa stia accadendo veramente al di sotto di Roma. Eppure esistono sicuramente delle best practices da indagare e riproporre. L'industrializzazione dall'alto della provincia di Frosinone alla fin fine ha retto al superamento della cassa del Mezzogiorno. E il lancio turistico del Salento è stato coronato da grande successo. Quindi si può.

approfitto dell'omonimia. Non so bene come mi vestirò. Formale, un po' disinvolto? Sono certo comunque che tutte quelle ragazze e quei ragazzi mi faranno festa, mi offriranno una flute di champagne. Poi dovrò tornarmene a casa. Le storie a volte si rincorrono. Ecco la nuova puntata. Ricevo gli estratti conto della mia banca e pochi giorni fa ho avuto un sobbalzo. Il saldo mi è apparso poverissimo. È successo che anche Cesare Junior ha aperto il suo conto nella mia banca, che è nello stesso palazzo, e per pochi minuti ho creduto che i miei risparmi avessero avuto un tracollo e ho cambiato idea. Non vado alle feste dei diciottenni, mi tengo il mio conto in banca. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cesare Rimini, bello l'equivoco sul nome, o no? Pubblicato dal Corriere della Sera del 22 dicembre.